in primo piano. Buona giornata, buona domenica da Mauro Meazza, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Chiaramente l'Egitto, come è immaginabile, occupa molte prime pagine dei giornali che sono in edicola questa mattina, ma ricevono un trattamento, per così dire, di riguardo anche il caso Kienge. Come sapete, questo odioso lancio di banane all'indirizzo del ministro Cécile Kienge, un gesto che è stato giustamente e subito deplorato anche in diretta. Lo racconta, ad esempio, voglio partire proprio da questo caso, Giancarlo Mazzucca, che è il direttore del Giorno e che a questo tema dedica l'editoriale. Perché? Perché è un testimone privilegiato. Dice: le due banane di prima scelta lanciate per colpire il ministro dell'integrazione Kienge, scrive appunto Mazzucca sul Giorno, l'altra sera alla festa del PD di Cervia, in realtà hanno sfiorato il sottoscritto, che stava moderando il dibattito con lei, proprio con il ministro, e con Paola De Micheli, braccio destro di Enrico Letta alla Camera. Cose che capitano quando si sta vicini a un personaggio scomodo come Cécile. Ho potuto quindi verificare in diretta, scrive Mazzucca, a quali livelli giunga la stupidità umana, ma credo che gli italiani non siano razzisti e che i fragorosi applausi rivolti alla ministra subito dopo il lancio sono la migliore conferma di quanto sia fuorviante generalizzare manifestazioni di insofferenza determinate da faziosità culturali. Eppure non dobbiamo sottovalutare il fenomeno, perché se è vero che il vicepresidente del Senato si è scusato per le vergognose offese alla Kienge, nel paese ci sono ancora 100.000 imitatori di Calderoli pronti a colpire con stupidi gesti senza nemmeno mostrare poi tardivi segni di pentimento. Negli ultimi giorni, prosegue l'editoriale del Giorno di Giancarlo Mazzucca, appunto, che è stato testimone di questa vicenda, devo dire che ha dei contorni dell'incredibile, insomma, tra le peggiori manifestazioni da stadio e come dire, la maleducazione allo stato puro. Negli ultimi giorni, scrive Mazzucca, in alcune località turistiche azioni di rigetto verso i Vucumpra, favoriti anche da certi comportamenti degli extracomunitari, debbono invitare alla riflessione. Meglio prevenirli i problemi di convivenza piuttosto che lasciare incancrenire le situazioni girando la testa altrove. Segue poi in questo editoriale una descrizione di quello che il ministro ha poi detto, perché questa vicenda, il gesto di un cretino, non deve poi far dimenticare che il ministro lì ha parlato, ha appunto annunciato delle cose anche relative appunto alla questione controversa dello ius soli, cioè del diritto di cittadinanza per chi nasce in Italia anche da cittadini non italiani. Dice: Cécile in ogni caso non merita tutto ciò, nel dibattito ha mostrato competenza e determinazione, ha parlato dello ius soli temperato, graduale legittimazione del concetto che chi nasce e cresce in Italia è italiano. Il ministro ha sottolineato il fatto che gli immigrati, in gran parte giovani, apportano l'11% al prodotto interno lordo, pagano quasi 11 miliardi di contributi e dichiarano al fisco qualcosa come 33 miliardi di euro. Insomma, un ministro che vive e affronta i problemi degli stranieri, clandestini o no, in prima persona, e che sull'argomento ha idee chiare che meritano di essere ascoltate. Forse, se posso sommessamente dare un piccolo suggerimento alla ministra nera, come si definisce lei stessa, consiglierei di cercare maggiormente il dialogo con gli italiani che non la pensano come lei o che sono spaventati dalle invasioni barbariche. Alla fine deve sempre prevalere l'umanità e il rispetto reciproco. Ho voluto cominciare questa rassegna stampa appunto da questa vicenda. Su molti giornali il gesto all'indirizzo del ministro e la solidarietà che subito fortunatamente è scattata nei suoi confronti occupano ampio spazio. Mazzucca, come vi dicevo, è testimone privilegiato perché era proprio su quel palco e quindi ha visto e soprattutto anche ascoltato le tesi che poi il ministro Kienge ha esposto nel corso di questa serata appunto funestata da questo gesto. Su altri giornali la vicenda Kienge viene rilanciata, ad esempio, da l'Unità che ha un titolo Siamo tutti Cécile Kyenge, mentre altri giornali ospitano comunque questo episodio, ma dandogli una rilevanza minore in prima pagina. L'Unità appunto dice Siamo tutti Cécile Kyenge, è il titolo principale, solidarietà unanime dopo gli insulti con il lancio di banane, Del Rio dice il paese è con lei, Zanda gesto indegno, Boldrini fermare l'odio, e la ministra che, come avete ascoltato anche nel corso del giornale radio condotto dalla collega Maria Luisa Pezzali, ha detto sono fiera di essere italiana, il governo prepara un piano contro i razzismi. Visto che siamo sull'Unità, vi segnalo il titolo sul Partito Democratico che è profondamente diviso, il PD tenta di tutto per ricucire lo strappo, ci segnala la prima pagina dell'Unità, si cerca la mediazione dopo il duello in direzione, il nodo è appunto sono le modalità di voto alle primarie, l'ipotesi, ci riferisce l'Unità, è che alle primarie possa votare chi sottoscrive il manifesto dei democratici. Sull'Unità di oggi anche intervista a Zoggia e Nardella, votino anche sostenitori e simpatizzanti, si dice da una parte, finiamola di parlare di regole, l'esortazione dell'altro iscritto, finiamola di parlare di regole, l'Italia non ci capisce. Questo per quanto riguarda la crisi del PD, che poi occupa diverse pagine, per lo più pagine interne, anche su altri giornali. Molti dei giornali oggi in edicola hanno però deciso di puntare su una anticipazione di un tema che diventerà presumibilmente rovente da martedì, e mi riferisco alla decisione attesa appunto per martedì su Silvio Berlusconi. La sentenza spaccatutto è ad esempio il titolo appunto ancora del giorno, Berlusconi 2 giorni alla Cassazione, i fedelissimi dicono è pronto a lasciare il Senato, ma in caso di condanna anche il Partito Democratico rischia di dividersi di nuovo. E Libero ospita praticamente per gran parte la prima pagina questo tema, colloquio con Berlusconi da parte di Maurizio Belpietro. Come sapete, colloquio è un termine che talvolta sui giornali viene utilizzato per definire quello che è appunto una chiacchierata, ma non si può proprio chiamare come un'intervista, e quindi con un intervistato che si lasci incalzare dalle domande del giornalista. Colloquio con Berlusconi è l'indicazione di Libero, se mi condannano non scappo, vado in cella, sono le parole virgolettate appunto attribuite al Cavaliere. Il Cavaliere però, segnala sempre il titolo della prima pagina di Libero, è convinto che martedì la Cassazione non potrà che assolverlo, ma se così non fosse rifiuterò i lavori socialmente utili, sono ancora le parole riferite di Berlusconi, e anche rifiuterò di andare ai domiciliari, voglio vedere se hanno il coraggio di sbattermi in galera. Questo colloquio è a firma di Maurizio Belpietro, che appunto inizia la sua descrizione di questo incontro con un Silvio Berlusconi non scappa, alla vigilia della sentenza della Cassazione che potrebbe condannarlo a 4 anni di carcere e a 5 di interdizione dai pubblici uffici, ponendo fine alla sua carriera di leader parlamentare del centrodestra, il Cavaliere si sfoga contro quello che ritiene un disegno politico per eliminarlo, ma al tempo stesso rivela anche le sue intenzioni per il dopo 30 luglio, deciso come sempre a non mollare. Comunque vada, scrive sempre Belpietro su Libero, e cioè anche se la Suprema Corte confermasse il giudizio d'appello e dunque gli spalancasse le porte del carcere, ricordiamo però che trattandosi di un parlamentare sarà poi necessario il voto delle Camere, l'ex Premier non ha nessuna intenzione di scappare. Nella villa di Arcore, quella dove secondo i giudici si sarebbero tenuti i festini a base di sesso e che ora appare solo una dimora storica piena di quiete e foto di famiglia, Silvio Berlusconi ripete senza cedimenti le sue decisioni. Quali sono le sue decisioni? Leggiamo sempre da Libero e da questo articolo di Maurizio Belpietro: non farò l'esule, come fu costretto a fare Bettino Craxi, né accetterò di essere affidato ai servizi sociali come un criminale che deve essere rieducato. Ho quasi 78 anni e avrei diritto ai domiciliari. Ma se mi condannano, se si assumono questa responsabilità, andrò in carcere. quella di Berlusconi non è una resa, l'uomo che per 20 anni è stato il protagonista della vita politica italiana non ha la voce incrinata dallo sconforto né le sue parole sono venate dalla rassegnazione, tutt'altro. Questo è l'articolo che potete leggere su Libero di oggi, dedicato appunto a questa vicenda, a questo D-Day giudiziario che si terrà appunto martedì con la sentenza di Cassazione. Ma si terrà veramente? Questo non è sicurissimo, e infatti qualche giornale, come ad esempio Repubblica, spiega che forse si può puntare al rinvio della sentenza. La vicenda della sentenza Berlusconi non è richiamata con forza nella prima pagina di Repubblica, che invece si occupa del caso Kienge. Basta insulti, temo per le mie figlie, è il titolo dell'intervista che Repubblica ha con il ministro. Intervista con il ministro dopo i manichini insanguinati e il lancio di banane. L'Italia ha ancora tanta strada da fare, via un piano del governo, così ha detto la ministra. Kienge, i razzisti non mi fermeranno. E poi le parole della Presidente della Camera Laura Boldrini, offesa anche dalle istituzioni. All'interno però, appunto, vi dicevo, si parla di questo 30 luglio, questa decisione a Cassazione, Mediaset, Berlusconi teme la condanna, forse si può puntare al rinvio della sentenza, sono parole virgolettate che vengono quindi attribuite indirettamente al Cavaliere. L'articolo è di Liana Milella, che dice: sono disperato, questi mi condannano, sto vivendo un incubo, sono parole appunto virgolettate e attribuite al Cavaliere. A vederla con gli occhi di Berlusconi, l'udienza di martedì in Cassazione per il processo Mediaset ha un esito scontato, la sicura condanna. Tutt'altra tesi naturalmente rispetto a quella che avete ascoltato da Libero, tant'è che in continue telefonate da quel di Arcore ieri non ha fatto altro che lamentare. Però, scrive sempre Liana Milella, in realtà siamo così sicuri che dopodomani l'udienza Mediaset effettivamente si tenga, c'è una percentuale che oggi supera di un bel po' il 50%, per poter dire invece che l'udienza potrebbe essere rinviata ad altra data. E poi appunto passa a spiegare il perché, per una questione di calcolo delle prescrizioni che non abbiamo ora il tempo di leggervi. Liana Milella spiega che si potrebbe andare ben oltre il 15 settembre. Noi invece adesso ci fermiamo per qualche istante e ascoltiamo le previsioni del tempo. A tra poco. In primo piano. Bentornati da Mauro Meazza, e ancora buona domenica. Vediamo quali sono le notizie in maggiore evidenza sui quotidiani in edicola quest'oggi. Stavamo parlando della sentenza attesa per martedì e che riguarda Silvio Berlusconi da parte della Cassazione. Sentenza che trova spazio anche ampio su alcune prime pagine dei giornali. Vi abbiamo riferito della presentazione che ne fa Libero, delle invece anticipazioni che vengono fornite da Repubblica. Secondo Repubblica appunto si potrebbe puntare a un rinvio, e poi c'è una, come dire, terza lettura, ce la offre il Secolo XIX, grande foto in prima pagina, che dice appunto: condannato, ecco le contromosse del Cavaliere, sia per un'eventuale richiesta di arresto sia per la decadenza in Senato, i tempi sono lunghi, quanto basta per cercare un paracadute all'Europarlamento. Come funzionerebbe questo meccanismo lo spiega Antonio Beccadelli poi nelle pagine interne. Così Berlusconi può avere asilo politico a Bruxelles, se arriva la condanna c'è l'ipotesi Europarlamento, in Senato i tempi sarebbero lunghi sia per il sì a una eventuale richiesta di arresto sia per il voto sulla decadenza. Naturalmente qui le ipotesi in qualche modo sui giornali si alternano e si intrecciano l'una con l'altra. Qui è il caso di una sentenza appunto di condanna, una doppia sentenza di condanna con richiesta di arresto. Allora, spiega Beccadelli, ci sarebbe un meccanismo potendo contare sui tempi che non sono immediati dell'autorizzazione da parte del Senato per arrivare al 2014, voto per l'Europarlamento, per il Parlamento europeo, e quindi in qualche modo evitare gli effetti di questa decisione negativa della Cassazione, se sarà negativa. Questo appunto quanto ricostruisce Beccadelli sul Secolo XIX. no, nel conto alla rovescia, scrive, sulla sorte giudiziaria e politica di Silvio Berlusconi corre frenetico, cresce di ora in ora l'attesa per la sentenza della Cassazione prevista per martedì sul caso Mediaset e sul futuro non solo giudiziario ma soprattutto politico del leader del centrodestra. Tuttavia una cosa è certa, se il cavaliere venisse condannato al carcere non andrebbe automaticamente dritto in cella e anche se condannato all'interdizione dai pubblici uffici, ricorda Beccadelli, Berlusconi almeno per un po' rimarrebbe senatore. Forse, ed è appunto la tesi poi sviluppata lungo tutto l'articolo, forse per il tempo sufficiente a candidarsi alle prossime elezioni per il Parlamento europeo e, una volta eletto, essere protetto dall'immunità parlamentare. Vedremo allora chi ha ragione, se ci sarà una sentenza, perché appunto c'è anche l'ipotesi di un ulteriore rinvio in base a un calcolo differente, un'interpretazione differente dei tempi della prescrizione della materia giudicata. C'è l'ipotesi appunto della non condanna, quella che viene sostenuta ad esempio da Libero, c'è l'ipotesi della strategia in caso di condanna, che è quella che viene presentata sul secolo XIX. Ma noi a questo punto cambiamo decisamente argomento. Avete sentito anche nel corso del giornale radio la vicenda egiziana, l'evolversi delle vicende egiziane, un'evoluzione decisamente preoccupante. L'Egitto di fatto sta a pochissimo da una guerra civile vera e propria. La Stampa dedica all'Egitto il suo titolo principale: Egitto, strage in piazza, e gli Stati Uniti che intervengono per dire basta violenze. La polizia spara sui manifestanti promorsi, almeno 66 morti. Sul numero delle vittime c'è una notevole confusione, anche data dal fatto che le fonti ufficiali sono in totale contrasto naturalmente con le fonti dei fratelli musulmani. Proprio i fratelli musulmani, la Stampa dedica all'interno un articolo di Francesca Paci che è intitolato L'occasione persa dei fratelli musulmani. Dopo quasi un secolo in clandestinità bruciano tutto in un anno. Francesca Paci racconta una fonte vicina ai fratelli musulmani che nel ricevere dai compagni la candidatura alla presidenza al posto dello squalificato Morsi abbia pianto e non di gioia. Era solo un anno e mezzo fa e ora che il primo capo di Stato islamista democratica eletto nel mondo arabo aspetta di essere processato insieme ai suoi in una cella verosimilmente vicina a quella dell'ex faraone, bisogna capire come abbia potuto la più strutturata organizzazione islamica del mondo bruciare la chance storica di governare l'Egitto riscattando 80 anni di clandestinità. L'impressione, scrive Francesca Paci, è che i generali stiano seriamente pensando di rimettere la fratellanza fuori legge, come è stato per decenni prima dell'emersione seguita alla caduta del vecchio regime. Abbiamo mandato in tribunale Mubarak, che era uno di noi, figurarsi se ci poniamo problemi con loro, ammette qualcuno vicino all'esercito. La vicenda appunto dei fratelli musulmani, per capire meglio che cosa sta accadendo in Egitto, questi scontri tra oppositori del deposto oramai presidente Morsi, con l'intervento dopo l'intervento dell'esercito, e invece i sostenitori promorsi. Blitz della polizia contro promorsi e strage al Cairo è il titolo ad esempio delle pagine interne della Stampa, ma anche sul Corriere della Sera il titolo più in alto, non quello come dire di corpo di evidenza maggiore, il titolo più in alto è quello dedicato all'Egitto. In Egitto prova di forza dell'esercito, i fratelli musulmani che denunciano decine di morti, dai militari ordine alla folla di disperdersi, paura di altre stragi. E poi due richiami per le storie che contrassegnano questa vicenda egiziana. Nella pagina 3 il Corriere mette a confronto la storia appunto di un militante che sta con i fratelli, dice il contadino Awad, sto con i fratelli perché capiscono la mia disperazione, un ex avvocato ha lasciato la città per vivere sul delta del Nilo. Parla anche della corruzione, del malcostume che affliggono pesantemente la società egiziana, ricorda ad esempio in questo articolo Cremonesi che questo contadino per avere la patente ha dovuto sborsare 500 lire egiziane di tangente ai funzionari. Dall'accanto la storia invece di un avvocato, l'avvocata Heba, stop ai fanatici, dice, l'Egitto che conosco è aperto e tollerante, schierata l'avvocato a favore dei militari contro gli islamici. Sul Corriere della Sera le altre notizie in evidenza sono da una parte una ricostruzione presentata appunto in prima pagina sui pensionati, nuovi pensionati in calo del 38%, questo perché dopo la riforma Fornero, quindi l'innalzamento dell'età pensionabile, la possibilità di ritirarsi chiaramente si è completamente modificata, in 10 anni segnala il Corriere risparmi per 80 miliardi. Poi la foto della prima pagina è dedicata invece all'impresa di Martina Grimaldi che ieri ha vinto appunto l'oro nella 25 km di fondo al mondiale, che si sta svolgendo a Barcellona. Vicenda sportiva che viene anche naturalmente rilanciata in cima alla prima pagina dalla Gazzetta dello Sport. Grimaldi, la maratoneta, vince l'oro allo sprint. E poi sempre dalla Gazzetta dello Sport, oggi sarà la giornata del Gran Premio di Ungheria con un allarme AFA quindi che non riguarda solo l'Italia con Caronte, come abbiamo imparato a chiamare questa fase di caldo molto molto insistente, ma anche appunto l'Ungheria dove si svolgerà oggi il Gran Premio. Torniamo sul Corriere della Sera per una notizia che anche altri giornali ospitano, ma che qui trova come dire l'onore della prima pagina. Troppi imbucati, show sospeso, l'attore Siani non può raccogliere fondi per gli scavi, è successo a Pompei, la vicenda non è diciamo edificante. Troppi imbucati, scrive Fulvio Buffi sul Corriere, troppa gente che impediva di sedersi a chi aveva comprato il biglietto, e lo show agli scavi di Pompei viene sospeso fino a qui, come dire, sarebbe qua una vicenda che potrebbe restare confinata nelle cronache minori, ma il problema qual è? Che per Siani, che è l'attore appunto che doveva tenere questo show, Alessandro Siani, intendeva devolvere un contributo di 20.000 euro appunto dato dal ricavato della vendita dei biglietti della serata per aiutare il pagamento di stipendi arretrati dei dipendenti degli scavi, e quindi l'attore si è visto costretto, riferisce Buffi, a salire sul palco, spiegare cosa stava succedendo e mettere la sua faccia a garanzia che chi aveva pagato il biglietto avrebbe avuto il rimborso. Insomma, serata, spettacolo gratis per tutti, e i 20.000 euro, ha detto Siani, gli darà come contributo personale. Questo in prima pagina sul Corriere della Sera, che poi ha anche un minimo spazio, devo dire, per il Papa, l'appello del Papa, Chiesa Semplice o la missione fallisce, il Papa a Rio per la giornata mondiale della gioventù. Cambiamo decisamente argomento, veniamo a questioni economiche. Ripresa certa a fine anno, scrive il Messaggero lanciando una intervista al ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni, mentre il nostro giornale, il Sole 24 Ore, ha una notizia in esclusiva che è appunto lo sblocco di 300 milioni per la ricerca in azienda. Ricerca 300 milioni alle imprese, viene sbloccata la prima parte del fondo crescita, il 60% sarà riservato alle piccole e medie imprese. Il lavoro del collega Carmine Fotina viene segnalato così nella prima pagina del Sole 24 Ore: 300 milioni alle imprese per la ricerca è la benzina che il governo prova a inserire nel sistema produttivo, sbloccando una prima tranche del fondo per la crescita sostenibile che è stato creato con il primo decreto crescita del governo guidato da Mario Monti. Il decreto prevede che i fondi siano distribuiti in forma di finanziamento agevolato fino a un massimo di 2,1 milioni per azienda. Sono possibili aggregazioni mediante contratti di rete, consorzi o accordi di partenariato. Sempre sulla prima pagina del Sole 24 Ore una notizia che qua e là occhieggia nelle pagine interne di qualche giornale, cioè l'intesa sui dazi relativi ai pannelli solari tra la Cina e l'Unione Europea, tema molto delicato per quanto riguarda la situazione economica. L'Unione Europea aveva deciso una politica di dazi crescenti, la Cina aveva reagito con minacce di restrizioni alle importazioni di alcuni prodotti da parte dell'Europa. La cosa ci riguardava molto da vicino perché tra questi prodotti soprattutto erano in prima linea i vini, e come sapete per noi si tratta di una produzione molto importante. Ora si è questa situazione si è risolta, appunto c'è stato questa intesa, e quindi sventato, scrive il Sole 24 Ore, il rischio di una guerra commerciale sui pannelli solari. Ci saranno delle quote e ci saranno dei prezzi minimi sui prodotti cinesi. La conseguenza quindi è che Pechino ferma le ritorsioni sul vino, però avverte Beda Romano sul Sole 24 Ore di oggi: l'industria europea resta insoddisfatta. E poi nella parte centrale della prima pagina del nostro quotidiano la vicenda egiziana, sangue al Cairo. La polizia spara sui seguaci di Morsi, decine di vittime, e un'analisi di Ugo Tramballi intitolata Piazza Tahrir e l'illusione di sottomettere i militari. Questo sul Sole 24 Ore di oggi. Ora noi ci fermiamo per qualche istante e ascoltiamo come va il traffico. In primo piano. Bentornati a questa ultima parte della nostra rassegna stampa domenicale. Un bentornato da Mauro Meazza, che vi rinnova anche il suo augurio di buona domenica, e ringrazio Filippo Aureggi che mi assiste in regia questa mattina. Stavamo su temi economici, restiamoci ancora per qualche momento sempre con il Sole 24 Ore, perché nelle pagine interne si torna a parlare di IMU. E come sapete qui la vicenda è un po' intricata, ma a farla molto semplice, per adesso non abbiamo pagato la prima rata dell'IMU, però se non si trova appunto il modo di far quadrare i conti, questa prima rata resta lì minacciosa. Allora ci avverte Marco Rogari che si sta lavorando per risolvere appunto la vicenda IMU, per ridisegnare l'IMU ed evitare di gravare sulle prime case. Cosa succede? IMU stretta sulle seconde e sulle terze case che restano vuote. Il tesoro è a caccia di risorse, scrive Rogari, per aumentare le detrazioni del 2013, portarle a 600 euro, quindi di fatto escludendo dal pagamento di questa imposta sugli immobili buona parte dei proprietari. E poi nel 2014 si prepara una service tax. La service tax dovrebbe essere una tassa unica che va a riunire sia il possesso degli immobili sia anche i servizi connessi, come ad esempio adesso è la tassa dei rifiuti. C'è anche, legato a questo tema dell'IMU di cui appunto riferisce Rogari, la questione della copertura dell'IVA. L'IVA non è aumentata nella sua aliquota massima, che è rimasta al 21%, si cerca di estendere almeno fino alla fine dell'anno lo stop all'aumento dell'aliquota, che in questo momento, ricorda il Sole 24 Ore, è congelata, ma fino al 1 ottobre. Quindi è congelata per 3 mesi, altrimenti anche lì, come per la prima rata IMU, se non si trovano coperture adeguate, si torna allo scatto in avanti. Nel caso dell'IMU si torna alla cassa per la prima rata, nel caso dell'IVA invece dal 21 si passa al 22%. Nelle pagine interne del Sole 24 Ore anche la novità importante della estensione del bonus del 65%, la detrazione del 65% per i lavori di ristrutturazione edilizia connessi, appunto, legati a immobili che si trovano in aree a rischio sismico, una notizia che è stata segnalata sul nostro quotidiano già ieri. Oggi ci ritornano Giorgio Santilli e Luca De Stefani. Antisismico, spiega Santilli, questo bonus per il 65% in favore delle costruzioni antisismiche, della messa in sicurezza antisismica, potrà operare in 3.000 comuni e ci sono anche 965 milioni, quindi una dote non irrilevante, del fondo della protezione civile. Luca De Stefani spiega poi come a questo punto andrà a ridisegnarsi l'accesso a questi sconti fiscali dopo le modifiche che sono state introdotte, appunto, durante il dibattito parlamentare. Ricordiamo che ancora questo deve essere definitivamente convertito in legge per diventare efficace. Dovrebbe questo succedere settimana prossima, appunto, abbiamo detto, c'è questa importante scadenza per la politica di martedì data dalla decisione della Cassazione, ma anche questa importante scadenza per tutti noi, che è data dalla definitiva conferma degli sconti contenuti nel decreto legge, con il 65% e il 50% per le ristrutturazioni. Quindi questo poi, naturalmente, come sempre, sarà seguito dal Sole 24 Ore, da Radio 24, dal nostro sito, naturalmente, per darvi tutte le informazioni anche di servizio del caso. Vi voglio segnalare nelle pagine interne del Sole 24 Ore poi una notizia che fa riflettere, ce la fornisce Matteo Prioschi: flop dei bonus per l'asilo nido, assegnato un terzo dei fondi. Scrive Prioschi: 3.783 lavoratrici ammesse al contributo statale per pagare l'asilo nido o la babysitter, a fronte però di un budget che avrebbe potuto soddisfare oltre 11.000 richieste. C'era una dote per 11.000 richieste, ma le richieste non sono state neppure 4.000. I numeri, dice Prioschi, non sono ancora definitivi, però sono già fortemente indicativi. Sono i numeri del cosiddetto bonus bebè, era stato introdotto dalla riforma del mercato del lavoro, la nota riforma Fornero, e sono numeri, come scrive Prioschi, piuttosto deludenti. Per favorire il rientro al lavoro delle neomamme lavoratrici è stato introdotto in via sperimentale un contributo statale che è alternativo al congedo parentale. L'importo massimo di questo contributo è 300 euro per le dipendenti full time, erogabile al massimo per 6 mesi, e quindi 1.800 euro per persona. L'operazione, che scrive Prioschi, sembrava partita con il piede giusto, però non ha avuto un grande successo. La mancanza di indicazioni finali, non si può sapere se poi le richieste siano state scartate o non siano proprio pervenute. La sostanza però è che, appunto, c'erano più fondi di quanti ne sono stati richiesti. Forse una burocrazia più complessa o magari non così trasparente ha scoraggiato le richieste. Forse la dote non era così appetibile, così invitante come poteva sembrare, e quindi questo ha fatto sì che il bonus bebè cosiddetto introdotto dalla riforma Fornero non abbia avuto il successo che ci si aspettava. Restiamo ancora sui temi economici. Vi avevo annunciato questa intervista al ministro Saccomanni sul Messaggero, che ha un titolo positivo, e quindi, insomma, anche visto che siamo quasi in chiusura della nostra rassegna stampa, mi fa piacere chiudere con un tono in crescendo: ripresa certa a fine anno. Questo è il titolo con cui il Messaggero presenta la sua rassegna stampa. Dice il ministro: recessione agli sgoccioli, il 2014 avrà il segno più, volesse il cielo. Mi permetto di commentare: sono oramai diverse volte che ci viene annunciata una ripresa che sarà sempre nel semestre successivo a quello in corso. Speriamo che questo sia il semestre buono. E poi una cosa molto interessante: intesa con la Svizzera, tasseremo i capitali fuggiti, e poi tagli al debito con vendita di beni statali. Questo scrive appunto il Messaggero per presentare la sua intervista, l'intervista fatta da Osvaldo De Paolini e Alberto Gentili al ministro Saccomanni, e infatti il titolo nelle pagine interne torna proprio su questo: tasseremo i capitali in Svizzera. Il ministro annuncia a settembre ci saranno i colloqui con Berna, e poi torna sulla recessione. La recessione sarà alle nostre spalle già alla fine dell'anno. Gli chiedono appunto come prima domanda: quando vedremo la luce alla fine del tunnel? Ne usciremo entro quest'anno. I segnali già si intravedono in questo terzo trimestre, e il quarto trimestre del 2013 dovrebbe vedere il primo segno positivo. Il 2014 sarà un anno interamente con segno più. Sono stime confermate dalla Banca d'Italia e dalle principali organizzazioni internazionali. In più abbiamo dati di natura fiscale che danno una inversione di tendenza dell'IVA sugli scambi interni, che invece era in calo fino a maggio, e quindi questo starebbe a indicare appunto la ripresa. E poi i negoziati con la Svizzera: provvederemo a tassare i capitali in Svizzera per quanto riguarda il futuro, e una frase che vi leggo testualmente: per quanto riguarda il pregresso pensiamo di negoziare un saldo da determinare. Vedremo che cosa vorrà significare questo, se è una sorta di scudo fiscale, di riedizione particolare dello scudo fiscale. Abbiamo pochissimi secondi, li uso per segnalarvi una notizia che ho visto solo sul Messaggero nelle pagine interne. Ci sarà un referendum, o meglio, la Gazzetta Ufficiale ha annunciato la partenza della raccolta di firme per un referendum per abrogare la legge Merlin. Come sapete è la legge che ha vietato le case di tolleranza in Italia. Ebbene, ci sono due persone che si sono date da fare per fare una raccolta di firme, abrogare la legge Merlin e di conseguenza la riapertura delle case chiuse. A settembre il via alla raccolta delle firme, lo segnala il Messaggero nelle pagine interne. Con questo è davvero tutto, grazie a Filippo Aureggi in regia. Io lascio la linea al nostro giornale radio. Una buona domenica a tutti.